Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. Dopo la conclusione dei suoi studi, Wertheimer avrebbe potuto dare numerosi concerti, eppure ha ricusato di farlo, pensai. A causa di Glenn non ha accettato di esibirsi. Suonare in pubblico gli era diventato impossibile. Il solo pensiero di dover salire su un podio mi fa venire la nausea, ha detto una volta, pensai. Ha ricevuto parecchi inviti, pensai, e tutti questi inviti li ha declinati. Sarebbe potuto andare in Italia, in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Germania, perché con le sole esibizioni serali nel Mozarteum si era conquistato una buona fama presso i cosiddetti agenti. Ma in lui tutto si è ridotto a mancanza di coraggio, non appena si è reso conto della maniera in cui Glenn aveva trionfato con le variazioni Goldberg. Da quando ho sentito Glenn non mi è più possibile presentarmi davanti al pubblico, diceva spesso, benché io gli facessi capire continuamente che lui suonava meglio di tutti gli altri, anche se non bene come Glenn. Quest'ultima cosa a lui non la dicevo, ma era possibile arguirla da tutte le altre che gli dicevo. L'artista del pianoforte, diceva Wertheimer, e io questo concetto di artista del pianoforte lo usavo assai spesso parlando con Wertheimer dell'arte del pianoforte per evitare il termine pianista che aborrivo. L'artista del pianoforte, dicevo dunque, non deve lasciarsi a tal punto impressionare da un genio da esserne paralizzato. Perché il fatto è proprio questo, dicevo. Tu ti sei fatto impressionare da Glenn in maniera tale che ora sei paralizzato. Tu, il talento più straordinario che mai abbia frequentato il Mozarteum, dicevo. E con questo dicevo la verità, perché Wertheimer era davvero un talento straordinario. Al Mozarteum non l'hanno più visto un simile talento, benché Wertheimer, come già si è detto, non fosse un genio come Glenn. Non bisogna lasciarsi subito abbattere da un ciclone canadese-americano come Glenn, avevo detto a Wertheimer, pensai. Quelli che non avevano lo straordinario talento di Wertheimer non si erano lasciati confondere da Glenn in maniera altrettanto micidiale, pensai, ma in compenso non avevano riconosciuto il genio di Glenn Gould. Wertheimer aveva riconosciuto il genio di Glenn Gould e ne era stato colpito a morte, pensai. Se restiamo in disparte e decliniamo gli inviti per troppo tempo, ad un tratto ci viene meno il coraggio e perciò anche la forza di presentarci davanti al pubblico, pensai. E infatti Wertheimer, avendo declinato tutti gli inviti nei 2 anni successivi alla conclusione dei suoi studi, non aveva più il coraggio di presentarsi davanti al pubblico né la forza di rispondere a un'agenzia, pensai. Ciò che Glenn si poteva permettere di prendere da un momento all'altro la decisione di non presentarsi più davanti al pubblico, e ciò nonostante seguitare a perfezionarsi fino al limite estremo delle sue possibilità e in definitiva delle possibilità strumentali del pianoforte, e proprio grazie all'isolamento raggiungere i risultati più straordinari e diventare per di più il più famoso di tutti nel mondo, tutto ciò, come ovvio, a Wertheimer non era possibile. Rifiutandosi di suonare in pubblico, Wertheimer perdette a poco non solo i contatti con il mondo concertistico, perché è senz'altro così che lo possiamo chiamare, ma anche le sue capacità, perché Wertheimer non era come Glenn un uomo che per il fatto stesso di vivere isolato riuscisse a progredire nella sua arte fino a raggiungere i risultati più eccelsi. Wertheimer, al contrario, era uno che a causa dell'isolamento poteva dirsi liquidato. Quanto a me, suonai in pubblico ancora un paio di volte a Graz e a Linz, poi una volta a Coblenza sul Reno per intercessione di una compagna di studi, dopodiché smisi del tutto. Suonare il pianoforte aveva cessato di divertirmi e non volevo passare la mia vita a cercare consensi presso un pubblico che nel frattempo mi era diventato del tutto indifferente, ciò di cui mi accorsi ad un tratto con la massima naturalezza. A Wertheimer invece il giudizio del pubblico non era per nulla indifferente. Wertheimer, questo devo dirlo, soffriva incessantemente di un desiderio ossessivo di consensi artistici, come del resto anche Glenn, che anzi ne soffriva forse con una intensità assai maggiore di Wertheimer, ma il fatto è che i consensi ottenuti da Glenn, Wertheimer se li era sempre soltanto sognati, pensai. Glenn Gould era un virtuoso nato sotto ogni aspetto, Wertheimer fin dall'inizio un fallito che non poteva ammettere il proprio fallimento e per tutta la vita non è riuscito a farsene una ragione. Pur essendo Wertheimer uno dei nostri migliori interpreti in assoluto, lo dico senza alcuna riserva, egli era ciononostante il tipico fallito, un uomo che al primissimo confronto con la realtà, nel suo caso con Glenn, fallì ed era inevitabile che fallisse. Glenn era il genio, Wertheimer nient'altro che l'ambizione, pensai. È vero che in seguito Wertheimer ha ancora cercato delle adesioni, come vengono chiamate, ma di adesioni non ne ha più trovate. Ad un tratto si ritrovò del tutto separato dall'arte del pianoforte e, come lui stesso ha detto tante volte, si è inoltrato nelle cosiddette scienze dello spirito senza sapere che cosa siano queste scienze dello spirito, pensai. È approdato all'aforisma, cioè, detto con cattiveria, allo pseudofilosofisma, pensai. Ha suonato per anni e anni solamente per sé, con l'unico risultato, o quasi, di una grande morbosità musicale, pensai. Ad un tratto, poi, il suo unico intento è stato quello di diventare quel che si dice un secondo Schopenhauer, un secondo Kant, un secondo Novalis, sottolineando queste sue titubanze pseudofilosofiche con Brahms e Handel, Chopin e Rachmaninoff. E verso se stesso provava solamente un grande disgusto. Almeno così era sembrato a me quando l'avevo rivisto dopo vari anni. Bösendorfer ormai non era altro per lui che uno strumento per elaborare musicalmente, questa parola orribile, pensai, qui ci sta proprio bene, la strada che aveva imboccato verso le scienze dello spirito. Praticamente in 2 anni Wertheimer ha perso tutto. I risultati raggiunti nei precedenti 12 anni di studio non erano più percepibili. Ricordo che quando, fu 12 o 13 anni fa, gli feci visita a Traich, rimasi sconvolto dal suo strimpellamento, perché di questo e nient'altro si era trattato, quando in un accesso di sentimentalismo artistico si mise al pianoforte per suonarmi qualcosa. E io non credo che nel propormi di suonare qualcosa egli fosse del tutto consapevole del proprio totale declino artistico. Credo piuttosto che sperasse che proprio io a quel punto lo incoraggiassi e lo invitassi a intraprendere finalmente una carriera alla quale lui stesso non credeva più da quasi un decennio, ma un incoraggiamento da parte mia era davvero impensabile. E infatti gli dissi con la massima franchezza che ormai era finito, che non mettesse più le mani su un pianoforte, che essere costretto a starlo a sentire era stato penosissimo e nient'altro, che la sua esibizione era stata per me estremamente imbarazzante e mi aveva precipitato nella più profonda tristezza. Egli abbassò il coperchio del Bösendorfer, si alzò in piedi e andò all'aria aperta. Per 2 ore non fece ritorno e per tutta la sera non disse una parola, pensai. Ormai con il pianoforte non poteva più far nulla e le cosiddette scienze dello spirito non erano un buon sostituto, pensai. partiti con l'idea di diventare dei grandi virtuosi. I nostri vecchi compagni di studi vivacchiano da decenni come maestri di pianoforte, pensai. Si fanno chiamare i maestri del conservatorio di musica e trascinano la loro esistenza disgustosa di poveri insegnanti in balia dello scarso talento dei loro allievi, nonché della megalomania e dell'avidità artistica dei genitori di questi allievi. E intanto sognano nelle loro case piccolo borghesi la pensione dell'insegnante di musica. Il 98% dei giovani che compiono studi superiori di musica entrano nei nostri conservatori con altissime aspettative e, dopo aver portato a termine i loro studi, trascorrono decenni e decenni di una vita penosissima facendosi chiamare professori di musica, pensai. Questa esistenza c'è stata risparmiata, pensai, a me come a Wertheimer. Ma c'è stata risparmiata anche un'altra esistenza, che io ho sempre odiato non meno di questa, quella che porta i nostri noti e celebri pianisti da una grande città all'altra e poi da una stazione balneare all'altra e infine da un paese di provincia all'altro, fino a quando le loro dita si paralizzano e la senilità interpretativa prende totalmente possesso di loro. Non appena arriviamo in un qualsiasi paese, pensai, è sicuro che vediamo attaccato a un albero un manifesto su cui è scritto il nome di un nostro vecchio compagno di studi, il quale nell'unica sala del paese, per lo più una squallida sala di osteria, suona Mozart, Beethoven e Bartok, pensai, il che ci fa venire il voltastomaco. Un simile indegno destino ci è stato risparmiato, pensai. Di 1000 pianisti ce n'è solamente uno o due che non prendono questa strada miserevole e disgustosa, pensai. Nessuno oggi sa più che io un tempo ho studiato il pianoforte, questo si può proprio dirlo, che ho frequentato e concluso i miei studi in un conservatorio di musica e che in effetti, come Wertheimer, sono stato uno dei migliori pianisti che abbia avuto l'Austria, se non l'Europa, pensai. E oggi scrivo queste sciocchezze a proposito delle quali oso dire a me stesso che sono sciocchezze di tipo saggistico, in modo da poter usare di nuovo questa parola che odio sulla strada della mia autodistruzione. Scrivo questi sfoghi saggistici che alla fine comunque mi sento costretto a maledire e a strappare e dunque a distruggere. E nessuno sa più che un tempo io stesso ho suonato le variazioni Goldberg, anche se non bene come Glenn Gould, l'uomo che mi sforzo di descrivere da anni perché in questa descrizione mi reputo più veritiero di altri. Nessuno sa più che ho frequentato il Mozarteum, ritenuto ancora oggi uno dei migliori conservatori di musica del mondo intero, e che io stesso ho dato dei concerti non solo a Bad Reichenhall e a Bad Krozingen, pensai. Nessuno sa più che sono stato un fanatico allievo del conservatorio, un fanatico virtuoso del pianoforte che si è misurato da pari a pari con Glenn Gould su Brahms e Bach e Schoenberg. Ma se l'occultamento di questi fatti, pensai, è sempre stato per me soltanto un vantaggio in quanto si è sempre rivelato della massima utilità, questo medesimo occultamento ha danneggiato assai profondamente il mio amico Wertheimer. Se io per questo occultamento mi sono sempre sentito rinfrancato, lui al contrario da questo occultamento è sempre stato mortificato e ammorbato, e anzi di questo sono oggi fermamente convinto, da esso è stato ucciso. Per me il fatto di aver suonato giorno e notte il pianoforte per oltre 15 anni e grazie a questo esercizio essere riuscito a ottenere risultati di straordinaria perfezione è sempre stato un'arma non solo contro il mondo che mi stava intorno, ma anche contro me stesso. Wertheimer invece, a causa di questo fatto, ha sempre sofferto. Tutto sommato, il fatto di aver studiato il pianoforte per me è sempre stato utile e anzi direi decisivo, proprio perché nessuno ne è più al corrente, perché è un fatto dimenticato e perché io stesso lo tengo nascosto. Per Wertheimer, invece, questo stesso fatto è sempre stato motivo di infelicità, ininterrotto pretesto per la sua depressione esistenziale, pensai. Io suonavo molto meglio di quasi tutti gli altri allievi del conservatorio di musica, pensai, e il fatto di aver smesso da un momento all'altro mi ha reso forte, più forte di quelli, pensai, che non hanno smesso e che non suonano meglio di me e che, da dilettanti quali erano, hanno trovato una via di scampo per tutta la vita nel farsi chiamare professori e lasciarsi insignire di decorazioni e onorificenze, pensai. Il mondo è pieno di imbecilli musicali che, finiti gli studi accademici, hanno, per così dire, intrapreso l'attività concertistica, pensai. Io non ho mai intrapreso l'attività concertistica, pensai. La mia mente me lo ha proibito, ma non ho intrapreso la cosiddetta attività concertistica per un motivo del tutto diverso da quello di Wertheimer, il quale, come già si è detto, non l'ha intrapresa, o quantomeno l'ha subito troncata, come si suol dire, a causa di Glenn Gould. La mente ha proibito a me di intraprendere l'attività concertistica, Wertheimer invece ne è stato impedito da Glenn Gould. L'attività concertistica, qualunque attività concertistica, è quanto di più atroce si possa immaginare. Suonare il pianoforte davanti a un pubblico è una cosa tremenda, suonare il violino davanti a un pubblico è una cosa tremenda, per non parlare di come sia tremendo ciò che dobbiamo sopportare quando cantiamo davanti a un pubblico, pensai. È il nostro più grande capitale poter dire di aver studiato in un celebre conservatorio e in questo celebre conservatorio avere, per così dire, portato a termine i nostri studi e poi invece non dirlo, di tutto ciò non dire niente a nessuno, pensai. Buttare a mare questo patrimonio, non esibirsi affatto per anni e decenni in pubblici concerti e così via, pensai, e invece considerare il tutto come un capitolo chiuso che può essere tenuto nascosto. Ma in effetti, se io sono sempre stato un genio dell'occultamento, pensai, Wertheimer, al contrario di me, non nascondeva mai nulla. Era uno che fin quando è vissuto ha sempre dovuto parlare di tutto, estrinsecare tutto, buttar fuori tutto. Ma naturalmente, a differenza di quasi tutti gli altri, noi abbiamo avuto la fortuna di non essere costretti a guadagnare del denaro, perché fin dall'inizio ne abbiamo sempre avuto abbastanza. Wertheimer, però, è sempre stato uno di quelli che del proprio denaro si vergognano, mentre io del mio denaro non mi sono mai vergognato, pensai, perché sarebbe la più grande delle follie vergognarsi del denaro di cui nascendo si è entrati in possesso. A mio avviso almeno sarebbe una perversione e comunque una forma di ripugnante ipocrisia, pensai. Dovunque ci guardiamo intorno, vediamo degli ipocriti che non fanno che dire di vergognarsi del denaro che hanno e che altri non hanno, mentre in fondo è più che naturale che alcuni abbiano del denaro e altri non ne abbiano e che poi ad un tratto questi ultimi ne abbiano e gli altri viceversa ne rimangano senza. Le cose stanno così e non cambieranno mai. La colpa non è di quelli che il denaro ce l'hanno e neanche di quelli che non ce l'hanno e così via dicendo, pensai. Ma questo non lo capiscono né gli uni né gli altri, perché in ultima analisi sia gli uni sia gli altri conoscono soltanto l'ipocrisia. Io non mi sono mai fatto rimproveri per il mio denaro, pensai. Wertheimer invece si rimproverava di continuo per il fatto di possedere del denaro. Io non ho mai detto di soffrire per il fatto di essere ricco, al contrario di Wertheimer, che lo diceva molto spesso e infatti nell'elargire il suo denaro non si lasciava spaventare neanche dalle somme più assurde, anche se questo alla fin fine non gli è servito a niente. Basta pensare, a titolo di esempio, a quei milioni che ha spedito in Africa, nella zona del Sahel, e che, come ho saputo in seguito, non sono mai arrivati a destinazione, essendoseli incamerati l'organizzazione cattolica alla quale lui li aveva affidati.